Buonasera, dottore. Buongiorno, dottoressa. Pronto? Sì, sì. Cioè, ci siamo un po'. Ci siamo un po'. Qua siamo dottoressa, infermiere, sì, giornalista, conduttrice. Sì, buongiorno, salve. Ascolti, niente. Ah, bene. Direi che è importante. Buongiorno, dottoressa, grazie. Ma adesso non so, dipende. Non parlare. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Sono un moto di zucchero, la pillola va giù. Mary Poppins era convinta che bastasse un poco di zucchero a mandare giù una pillola, mentre un pizzico di sale in meno aiuterebbe a ridurre il mal di testa. Dirlo naturalmente non è Mary Poppins, ma i ricercatori della Hopkins University. Ma non è solamente il sale, lo sappiamo bene, l'alimento incriminato. Ci sono tantissimi altri cibi che possono scatenare l'attacco. Voi ne avete esperienza? Allora raccontatecelo all'800 24 00 24. Il cioccolato, gli agrumi, il glutammato di sodio, i formaggi stagionati. Parliamone insieme, perché se il dolore è comune a tutte le specie animali, il mal di testa sembra proprio essere specifico dell'uomo. Avere mal di testa è forse il prezzo che si paga per avere, sì, un cervello prezioso e complesso. Allora, per questo tutti noi conosciamo il mal di testa, ad esempio la cefalea di tipo tensivo, che, pensate, è sperimentata almeno una volta nella vita dall'80% delle persone. Il 12% soffre invece di emicrania, in particolare ne soffre il 25% delle donne tra pubertà e menopausa. Ma la cosa un po' che forse sfugge, che non tutti sanno, è che il 4% delle persone in tutto il mondo hanno mal di testa tutti i giorni dell'anno. Però c'è una buona notizia, ed è che il mal di testa, se non si può evitare, d'altronde uomini siamo, si può curare. Per dirla in breve, mal di testa, se lo conosci, lo curi. Potremmo intitolare così questa prima parte di Cuore e Denari, in cui cercheremo, partendo proprio dalle vostre telefonate che aspettiamo già sin d'ora, cercheremo di darvi consigli mirati per affrontare la cefalea. Allora chiamateci per descrivere il tipo di dolore, quando insorge, dove si localizza, e il nostro esperto, alla luce delle più recenti ricerche, vi aiuterà anche a capire di più, a non perdere la testa. Nico? Lo sai che sono a Roma, ciao. Lo so. No, volevo dire, infatti, che io noi non abbiamo perso la testa perché sapevamo che tu eri lì. Ero lì, ero qua in ascolto. No, stavo ragionando sul fatto che io non ho mai mal di testa, ma con i temi che tratto lo faccio venire spesso e volentieri agli altri, quindi mi devi aiutare un po' ad alleviare. Assolutamente, sì. Esatto. Allora, chissà che qualche brutto mal di testa dei nostri ascoltatori, appunto, non sia stato causato da quelle piccole, grandi, chiamiamole ingiustizie, scorrettezze, che come consumatori quasi tutti ci sentiamo di aver subito almeno qualche volta nella nostra vita. È proprio Pensate, così. Vero? Pensiamo alle arrabbiature che ci siamo presi per un contratto con una società telefonica o per le forniture di luce e gas, no? Pensate a quella volta che vi siete sentiti un po' presi in giro da una pratica commerciale scorretta, da una telefonata troppo insistente a cui abbiamo dato la risposta sbagliata e un po' nervosa, da quella firma che ci è stata chiesta senza darci la possibilità di pensare con calma le cose. Questo per arrivare a dire che cosa? Che essere consumatori consapevoli vuol dire saper prevenire questi inconvenienti, ma anche saper si comportare nel modo giusto per porre rimedio a ciò che troviamo ingiusto. La buona notizia è che ci sono persone e strumenti che sono lì apposta per aiutarci. Ne parleremo nella seconda parte della trasmissione. Voi intanto all'800 24 00 24 o al 349 238 6666 potete iniziare a raccontarci le vostre esperienze. Sapore di sale, sapore di mare. Un pizzico di sale in meno, tanta salute in più. Parliamo di sale, ne consumiamo circa il doppio della dose raccomandata. Ogni persona, infatti, secondo i dati, ne consuma circa 10 grammi al giorno. ridurre l'assunzione di sale di un terzo nei prossimi 10 anni, pensate che è proprio uno dei 9 obiettivi globali fissati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità contro le malattie non trasmissibili. Secondo l'OMS, infatti, se riuscissimo a centrare questo traguardo, e quindi a ridurre del 30% il nostro consumo di sale entro il 2025, milioni di vite potrebbero essere salvate da attacchi di cuore, ictus e altre malattie correlate. Perché? Perché il sale aumenta la pressione arteriosa e l'ipertensione e quindi moltiplica il rischio di cardiopatie e attacchi di cuore. Ma c'è dell'altro. Secondo i ricercatori americani, qualche pizzico di sale in meno potrebbe portare a una diminuzione significativa degli episodi di mal di testa. In linea con noi è tornato a trovarci il professor Piero Barbanti, primario neurologo all'Istituto Scientifico San Raffaele Pisana di Roma. Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno Nicoletta, grazie, buongiorno anche a Deborah che è nella mia città. Ecco, professore, siete vicini, sempre più vicini. Sì. Professore, cosa ne dice di questa ricerca? Meno sale, meno mal di testa? Devo essere sincero, Certo. se l'avessero mandata gli italiani sarebbe stata castata. Questa è una ricerca che, se non fosse il fatto che parla di sale, fa acqua da tutte le parti. Cioè, cosa dice? Sono persone che sono studiate in questi pachidermici studi americani seguiti per lunghissimi anni per questioni relative alla pressione alta. Ebbene, in questa popolazione di soggetti che non sono cefalalgici, sono persone della strada, sono stati dati ad alcuni 8 grammi ad altri 4 grammi di sale al giorno. Non ci vuole la scala per capire che in genere chi prende poco sale ha in genere una salute migliore. Fatto sta che quello che viene fuori è che queste persone che prendevano 4 grammi di sale al giorno avevano meno mal di testa di chi ne aveva 8 di grammi al giorno nella dieta. Ma quale mal di testa? Erano sofferenti di mal di testa? Prendevano farmaci che inducevano mal di testa? Questo lo studio non lo dice. Quindi il messaggio per gli ascoltatori è il famoso modus in rebus dei latini: non facciamo la dieta senza sale per il mal di testa, usiamone poco perché troppo sale fa male. Ma non mi sentirei di avallare la bontà di quello studio, che come tutti gli studi va valutato anche col buon senso del medico. Va sempre preso con le pinze. Però, professor Barbanti, ci sono alimenti e bevande che sono in grado di scatenare o peggiorare una cefalea. Dall'altra parte però sappiamo che gli alimenti, il cibo, non hanno sempre un'azione negativa. Ci sono anche dei alimenti che hanno una funzione protettiva. Allora, professor Barbanti, prendiamo un libricino nero e mettiamo gli alimenti che possono scatenare un attacco di mal di testa, e poi ne prendiamo un altro, di che colore lo facciamo? Rosa, direi, in cui mettiamo quelli protettivi. Ci sta? Sì, sì, come no. Allora, intanto mettiamo in cima agli alimenti vietati una cosa che alimento non è, ma è una bevanda, ed è l'alcol. Purtroppo l'alcol, per mille motivi, non fosse altro che il cervello, permettetemi di dire, è una palla di grasso, e nulla di meglio dell'alcol per sciogliere certo il grasso. Certo, definita una palla di grasso, Deborah, da un neurologo fa sorridere. È un'immagine veramente curiosa, sì. Senti, tu con quella tua palla di grasso, cerca di stare attento, pensa la prossima volta. Va bene, quindi questa palletta di grasso non ama l'alcol. Non l'ho definita palla di lardo, però lì sarebbe stato offensivo. Grasso. L'alcol scioglie il grasso, penetra nel cervello con grande rapidità, quindi il primo a essere vietato. Il secondo, mi permetterei di dire, purtroppo, il glutammato monosodico, e cioè il dado da cucina, il ristorante cinese, ahimè, è ricco di questa sostanza. La terza sostanza di cui il cervello meccanico ha paura è l'ossido nitrico, che viene liberato dagli insaccati. E l'ossido nitrico è un po' come la criptonite per Superman, nell'emigranico scatena attacchi terribili. Nella lista rosa cosa mettiamo? Non a caso l'abbiamo fatta rosa, vedi Deborah? E il professor Barbanti ci ha fatto finta di niente. Siamo avanti, avantissime. Però, potremmo mettere per esempio tutte quelle sostanze che contengono magnesio, per esempio, contrariamente a quanto si crede, la frutta secca, le noci ne contengono in quantità, e direi anche, io sono poco bravo in termini botanici, ma diciamo gli ortaggi e comunque la verdura a foglia larga, foglia verde, contiene altri nutrimenti come ad esempio la vitamina B2, il coenzima Q10 invece è contenuto nel pesce, nelle uova e nella carne, che fanno bene. Quindi leviamo un bicchiere di vino di troppo, attenzione al dado da cucina e il resto. Sul cioccolato ne parleremo poi con gli ascoltatori, perché la questione è complessa. Professore, però non è sempre solo colpa di quello che mangiamo a scatenare l'attacco, possono giocare altri fattori, lo sappiamo bene. Alcuni sgradevoli, lo stress ad esempio, la mancanza di sonno. Altri piacevoli, pensa all'attività sportiva, al sesso. I medici si sono addirittura sbizzarriti a trovare nomi curiosi, divertenti per descrivere mal di testa. Così leggiamo che ci sono mal di testa a rombo di tuono, da attività sessuale, ipnica, da tosse, da hot dog, dinamite, e chi ne ha più ne metta. Allora volevo invitare i nostri ascoltatori a chiamarci per raccontarci se hanno dato un nome al loro mal di testa. Succede quando conviviamo con un disturbo, c'è un modo per accettarlo e per renderlo un po' amico. 800 24 00 24. Abbiamo già molti ascoltatori, professor Barbanti. Debora, cosa dici? Andiamo subito a sentirli? Pare che questo mal di testa davvero sia un argomento molto democratico, Nicoletta. Più o meno riguarda tutti almeno una volta nella vita. Cominciamo con Rita dalla provincia di Udine, l'800 24 00 24. Rita, buongiorno. Buongiorno. Lei come lo chiama il suo mal di testa? Guardi, io lo chiamo come lo chiamano i medici. Avevo 20 anni che ha cominciato. È un'emicrania che nei tempi passati era definita emicrania mista. Mentre da quando sono in menopausa ho molti molti episodi di meno, ma credo siano tutti collegati al cibo. Il mio medico dice che è vero, che mangiando certi cibi, cioccolato, pomodoro, fragola, agrumi, vino rosso, tonno, uova, le uova sono per me micidiali, mi si alza l'istamina e mi viene mal di testa. Sono dei mal di testa terribili, durano tantissime ore, e solo attraverso l'assunzione di Relpax, una compressa, io posso stare meglio, però ne devo fare un uso molto costante. Grazie Rita, una descrizione direi molto precisa, professor Barbanti. Rita ci ha detto che ha un'emicrania mista, d'altronde ci sono più di 200 tipi di mal di testa. Oggi lei ci aiuterà proprio a dare un nome al nostro e ci darà consigli e suggerimenti, ma anche novità sul fronte della prevenzione e del trattamento. Rita sembra abbastanza rassegnata, deve eliminare molti alimenti dalla sua dieta e deve prendere costantemente una pillolina. Dovrei dire una cosa però alla signora Rita, è vero, però attenzione a fare proprio una regola dei cibi che scatenano il mal di testa, altrimenti finiamo ad avere la cefalea da digiuno, che è invece una delle forme più frequenti di mal di testa, una delle cause scatenanti più frequenti dell'emicrania. Cosa c'entra l'istamina? L'emicranico è un tipo strano, è un tipo che ha poca concentrazione di alcune sostanze, in particolare la serotonina, la noradrenalina e in parte anche l'istamina, per cui quando di questa sostanza di cui è ghiotto ma privo gliene viene data, ci si strozza, e il termine non è medico ma fa rendere bene l'idea. Intanto esisteva una tecnica che ora si fa poco, della desensibilizzazione istaminica, per la quale il soggetto, esponendosi progressivamente alla sostanza causale, ne ha sempre meno di mal di testa. Cosa diciamo, Rita? Di fare una dieta equilibrata, ricordiamoci, donna, menopausa, non incominciamo a levare le uova per motivi cefalalgici perché facciamo un buco nell'acqua. Ci sono anche cure preventive, ma se mi permette vorrei dire agli ascoltatori se, oltre a raccontarci il nome del mal di testa, ci dicono secondo loro che esame occorrerebbe fare. E poi magari al termine del mio intervento diciamo quale è giusto e quale è sbagliato. Questa mi sembra un'ottima idea, oltre naturalmente alla localizzazione dove picca il male, insomma, e la frequenza e la durata. Professor Barbanti, abbiamo parlato di donne. Un'ascoltatrice ci scrive se è possibile dire qualcosa sul mal di testa che insorge in occasione del ciclo mestruale. La ragazza, tra l'altro, ha un ipotiroidismo. Le due cose potrebbero essere legate? professore, ci sono delle indicazioni alimentari, magari di stile di vita, che potrebbero in qualche modo aiutare questa ragazza a superare questi momenti che sono puntuali, perché arrivano ogni mese? Allora, potremmo dire, per quanto riguarda la parte dell'ipotiroidismo, la nostra amica lo curi, perché quando noi abbiamo una persona nota emicranica che peggiora senza motivo il mal di testa, siamo noi a richiedere di controllare la tiroide, perché l'ipotiroidismo può latentizzare o peggiorare un andamento di un'emicrania, quindi curiamolo. Per quanto riguarda il periodo mestruale, il cervello emicranico è un cervello molto permaloso, si offende quando gli cambiano le carte in tavola, gli ormoni crollano in periodo premestruale e lui fa il muso. E si possono fare alcune cose, come per esempio l'introduzione di magnesio, e il magnesio come integratore anche acquistabile come prodotto da banco, nella seconda fase dall'ovulazione in poi per una quindicina di giorni. Altre volte sono richiesti piccoli accorgimenti farmacologici, altre volte occorre parlarne con il ginecologo. Per esempio, chi prenda la pillola e la interrompa, in alcuni casi, con il consenso del ginecologo, può non interromperla. Ricordiamo che negli Stati Uniti esistono delle pillole con cui la donna ha flussi mestruali 4 volte all'anno, perché l'interruzione della pillola è solo per creare uno pseudo mestruazione, non sono mestruazioni. Quindi ci sono alcuni piccoli trucchi, a volte alcuni buoni farmaci. 800 24 00 24 per parlarne con noi, per venire a capo del vostro problema. Deborah, dove andiamo? Andiamo a Bergamo. Dai, dove ci aspetta Stefano in questo caso. Buongiorno. Anche per lui da anni. Una bella sofferenza, sì. Buongiorno. Ci dica Stefano. Buongiorno, buongiorno Stefano. Senta, io volevo raccontarvi un po' la mia esperienza. Io non ho mai sofferto di mal di testa, però dopo un evento clinico abbastanza importante, quindi nel gennaio del 2008 ho terminato una chemioterapia, mi si sono presentati puntualmente con una certa periodicità delle problematiche sulla cefalea. Una cefalea che dopo ho indagato essere una cefalea con aura. Quindi con sintomi anche visivi e neurologici. Esatto, professor esatto. Barbanti, sono preparata. Ma io sulla cefalea con aura sono preparata. Stefano, e tra l'altro ci si spaventa parecchio, vero? Sì. Diciamo che durante l'attività lavorativa non sono portato a fermarmi mai dal lavoro, ma il fattore campo visivo che tende a essere deformato e poi che prelude già, e quindi ne sei cosciente, al mal di testa è un po' demotivante, diciamo, e quindi sai che per le successive 48 ore dopo ci sarà un po' di tensione. Io la vivo molto a livello temporale, soprattutto. Lei non ha mai seguito nessuna terapia, Stefano, vero? Io non ho mai seguito terapie su questo, infatti l'idea era quella di avere qualche suggerimento in merito, perché l'ho sempre lasciato esaurire in autonomia, diciamo, questa Professor situazione. Barbanti, spesso le persone che soffrono mal di testa raccontano: bene, cerco di resistere, non prendo nulla e poi passa, tanto deve fare il suo corso. Professore. Questo può andare bene, questo ragionamento, se una persona abbia talmente tanti mal di testa che rischia di prendere l'analgesico quotidianamente, altrimenti è corretto invece prendere il farmaco. Ricordo che il cervello ricorda il dolore meglio del piacere e si crea poi una condizione di cefalalgofobia. Dico a Stefano, l'emicrania con aura è una patologia dovuta ad un eccesso di eccitabilità della corteccia cerebrale, che può essere molto bizzarra, comparire per alcuni anni, poi eclissarsi. Sono possibili delle cure, i consigli telefonici non possono valere, tantomeno quelli radiofonici, però solo per ricordare che esistono alcuni integratori, uno si chiama Ginkgolide B, questo non è il nome del farmaco, del principio attivo di estrazione naturale, che non essendo un farmaco riduce la frequenza delle aure. Bisogna sempre parlarne col medico, ma solo per dire ai nostri ascoltatori che ciò che sembra una malattia non trattabile ha decine e decine di trattamenti che vanno dalla nutrizione appropriata alla terapia farmacologica appropriata. Quest'anno, anzi l'anno prossimo, ci sarà l'Expo dedicata alla nutrizione e agli alimenti. Noi del mondo del mal di testa cercheremo dal nostro punto di vista di cavalcare l'argomento, perché ciò che una volta veniva detto come patologia del non mangiare e non prendere può diventare oggi invece la patologia della integra, aggiungi e stai meglio. Molto bene. Professor Barbanti, allora, diciamo ai nostri ascoltatori, dimmi che tipo di mal di testa hai, che esame hai fatto, anche perché professor Barbanti ha puntualizzato. Sì, quello mi interessa tanto, sì. Ecco, raccontate al professor Barbanti che esami avete fatto o che vi piacerebbe fare, suggerire al vostro medico di farvi fare e ti dirò come curarlo. Cuore e denari. Essere precisi, questa è una microscopica vacanza da Milano, Nicoletta, e quindi è una vacanza con lavoro, però non ti ho abbandonata per una vacanza romana vera e propria. Perché sennò se tu fossi stata in vacanza avresti chiamato anche me, perché senza la Nico che vacanza è? Facciamo fare la trasmissione a Marco e Laura da soli. Allora, anche se oggi siamo distanti, appunto, lo dicevo, sono sempre al lavoro per dare, speriamo insieme a Nicoletta, consigli utili ai nostri ascoltatori anche dalla capitale, che così tanto in questi giorni al centro di polemiche, scandali, ingiustizie che vengono alla luce. Ci sono, ahimè, le grandi ingiustizie, ma ci sono anche quelle un po' più piccole che riguardano le nostre vite di consumatori, che non sono certo meno importanti. E forse per il bilancio e la serenità di una famiglia sappiamo che proprio queste vicende possono fare la differenza. Noi tra poco con Fabio Picciolini, presidente di Consumers Forum, torniamo a parlare proprio di come si può esercitare il proprio ruolo di cittadini e consumatori consapevoli, imparando a farsi rispettare con gli strumenti giusti. Allora chiedo agli ascoltatori: quando vi siete sentiti vittime di un'ingiustizia come consumatori e come vi siete comportati? Raccontatecelo all'800 24 00 24. La televisione che osservo a casa serve solo per il mio mal di testa. Tornare da Milano all'ora di punta serve solo per il mio mal di testa. E noi torniamo a parlare di mal di testa con il professor Piero Barbanti. Abbiamo visto che ne esistono forme diverse, più di 200 tipi, e che ci sono tanti fattori che possono scatenare l'attacco. Abbiamo parlato di alimenti tra virgolette incriminati, abbiamo parlato anche della localizzazione del dolore. Il professor Barbanti vi sta chiedendo anche quale esame avete fatto, vi è stato proposto di fare. 800 24 00 24. Leggeremo qualche messaggio, Deborah, ma abbiamo Thomas da Napoli che ci aspetta. Che certo. Dici? Buongiorno. Andiamo Thomas a sentirlo subito, certo. Benvenuto. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie. Anche perché appunto particolarmente oggi ho un interesse particolare, perché soffro di mal di testa da quando avevo 15 anni. Diciamo che negli Thomas, anni quanti ne ha adesso? Scusi, tanto 50, per sì, 51. Mamma mia. Ovviamente mal di testa che piano piano ho imparato a capire, a comprendere quali erano le cause, insomma, diciamo sulla mia esperienza. In effetti ho capito che appunto mangiando alcuni alimenti avevo questi mal di testa, però non telefono per questo, telefono perché in effetti i mal di testa piano piano sono riuscito a tenerli sotto controllo, però quando cambia il tempo, cioè quando ci sono delle variazioni atmosferiche improvvise, che ne so, che le previsioni dicono che domani piove mentre poi dopo il tempo sarà bello, quando ci sono queste variazioni io ho dei attacchi molto forti che ho imparato a riconoscere appunto proprio con l'esperienza, cioè con gli anni. Non sono riuscito a farmi curare in nessun modo perché l'hanno definita una cefalea senza aurea, e ho fatto omeopatia, acupuntura, ho provato diciamo diverse terapie, ma alla fine l'unica terapia che mi ha aiutato, soddisfatto, sì, è quella mia individuale, cioè nel senso che quando mangio diciamo meglio ed elimino alcuni alimenti ho un beneficio, diciamo il fattore scatenante, ho eliminato alcuni fattori scatenanti e quindi il dolore è meno intenso. Professor Barbanti, vero, quando il medico non aiuta noi ci attrezziamo in qualche modo e a volte ce la caviamo abbastanza benino. Sì, devo dire che alcune volte il medico non spiega bene al paziente, gli comunica un'etichetta che è la diagnosi, un foglietto che è la cura, il paziente va a casa e poi deve farsi la spiegazione lui, e Thomas ha fatto bene a farsi una sua ragione. Non è forse però esattamente così. Il clima c'entra moltissimo. Pensate che c'è una letteratura fiorente sui tipi di vento che causa il mal di testa. Addirittura in Canada c'è questo Chinook, che è un vento terribile in grado di sciogliere metri di neve in un giorno le montagne rocciose, implicato col mal di testa. Cosa c'è alla base di questo? Il neurone del soggetto con mal di testa ha i cancelli per gli ioni un po' permissivi, e gli ioni, l'elettricità statica dell'atmosfera, possono ovviamente modificare in base alle condizioni climatiche, ed ecco che l'attacco si scatena. Per quanto riguarda l'alimentazione, molte volte noi facciamo una serie di errori assieme, cioè diciamo oggi ho mangiato, non so, le uova sono stato poco bene, però magari ne ho mangiate parecchie, ho mangiato tardi, ho associato 3 bicchieri di vino. E allora fare il processo all'alimentazione, direi, va bene. Al singolo alimento è pericoloso, all'alimentazione sì, rendiamola corretta, mangiamo 3 volte al giorno, che la colazione sia colazione. Non me ne vorranno i baristi napoletani con il loro meraviglioso caffè, ma caffè e brioche non è la colazione. La colazione dovrebbe avere il 30% del contenuto di calorie della giornata, mi dicono i ben informati. Professor Barbanti, qua sfondo una porta aperta, perché con Deborah abbiamo fatto tantissime puntate sulla prima colazione, che devo dire che è diventato a tutti gli effetti proprio il pasto più importante della giornata. Quello che dà la sveglia. Proprio, no? Allora, voglio raccontare la storia di Paolo da Riccione, che ci dice che ha sofferto mal di testa per 6 anni, perdeva anche 2 giorni di lavoro a settimana. A un certo punto ha scoperto di avere la pressione alta, ha preso la terapia antipertensiva e i suoi mal di testa sono spariti. Questo per dire, professor Barbanti, che a volte la soluzione c'è, è proprio lì vicino. E magari il nostro Paolo non aveva mai pensato di andare dal medico, di misurarsi la pressione, e ha trovato invece la causa della sua cefalea. È frequente? Allora, questo è un aspetto non raro. Bisogna pensare che sia la pressione, in particolare quando il mal di testa, l'emicrania, compaia regolarmente di notte. Attenzione bene, l'emicrania ha il suo privé intorno alla stanza riservata, intorno alle 6, alle 7 del mattino, ma l'emicranico lo sa bene, se incomincia a svegliarsi regolarmente alle 2 alle 3 col mal di testa, misuri la pressione o semmai faccio un oltrepressorio. C'è una cosa molto bizzarra: l'aumento della pressione minima, che poi è la cosa pericolosa anche per i cardiologi, correla con l'aumentato rischio di emicrania. L'aumento della pressione massima, purché sia entro certi livelli, paradossalmente è protettivo. Non solo, a complicare il quadro, a renderlo bizzarro, alcuni notissimi antipertensivi sono anche notissimi antiemicranici, alludo alle cure preventive. Quindi sono settori imbricati, però il messaggio molto semplice è: chi non ha mai avuto mal di testa e lo sviluppi, si misura la pressione, e chi aveva sempre il suo tipico orario e ce l'abbia regolarmente di notte, come direbbero a Roma, a rimisuri la pressione. A rimisuri la pressione. E noi andiamo a Genova? Andiamo a Genova da Simona. Buongiorno. Poi prenderemo anche Ivano da Vicenza. Buongiorno a tutti. Benvenuta. Molte donne, Nicoletta, non è un sì, caso, perché il mal di testa preferisce noi donne, insomma. Sì, purtroppo. Non è il solo, Io non voglio farvi perdere tempo, quest'ultima telefonata è stata interessantissima perché il mio secondo mal di testa, perché io soffro di 2 forme di mal di testa, sopraggiunge spessissimo di notte. Io non sapevo questa cosa, volevo chiedere però al professore. Io normalmente ho la pressione molto bassa, come quasi tutte le donne, io ho 45 anni, per ora ho la pressione sempre molto bassa. Ma quando il mal di testa mi insorge di notte, mi dura anche 3 giorni consecutivi. Un mal di testa con una forma come se sentissi schiacciare intorno alla testa, intorno alle tempie, diciamo. E questo è il mio secondo mal di testa, perché il mio primo mal di testa è una cefalea con aura che io ho da 15 anni. Ho avuto il primo episodio appunto 15 anni fa e non sapevo dell'esistenza di questa patologia. Io mi sono spaventata tantissimo perché ho avuto una riduzione del campo visivo con addirittura una diplopia, che il professore saprà che cos'è, e quindi mi ero addirittura un problema a parlare, cioè in quel momento io non riuscivo a dire le parole giuste, quindi mi sono spaventata, sono corsa dal neurologo che mi aveva fatto fare ai tempi l'elettroencefalogramma, ora non ricordo se l'attacco o la risonanza magnetica, ma e un elettroencefalogramma da cui si vedeva, mi diceva, ma lei ha sonno, io avevo ai tempi le bambine piccole, si vede che nell'elettroencefalogramma io dormivo praticamente. Professor Barbanti, se Simona le ha dato tutti gli elementi necessari, possiamo dare un'indicazione? Che... Sì, intanto verrebbe da chiedere a Simona se è neurologo, perché una cosa bizzarra, è stato fatto uno studio, il 50% dei neurologi ha presentato aure nella vita, io appartengo a quelli. È un fenomeno l'aura completamente bigno, lo dicevamo prima a Stefano, e si tratta... secondo tipo di mal di testa, ad un mal di testa che deve farci controllare i livelli di pressione, sia perché da quello che ho capito è un mal di testa nuovo, secondo perché è regolarmente notturno. Ricordiamo bene, ci sono alcune cefalee tipicamente notturne, la cefalea ipnica, la cefalea grappolo, ma ognuna si è preso uno slot, la cefalea grappolo tipicamente l'una di notte, l'una alle due, alcuni emicranici possono avere mal di testa anche alle tre di notte, si badi bene. Però sarebbe corretto se Simona controllasse la sua pressione. E per quanto riguarda ecco, gli esami, lei mi ha risposto. L'elettroencefalogramma è un po' stirata per i capelli, sì, nell'emicrania con aura ci sono alcune diagnosi differenziali, ma l'esame che semmai serve, quando serve, è la risonanza, perché la TAC poi senza contrasto vede solo se c'è sangue o meno e quindi esclude solo rarissime gravi forme di mal di testa. Quindi non disperdiamoci a fare esame di testa nostra e quando facciamolo facciamo la risonanza, ma solo se ce la chiede il medico. E così in questo modo, senza saperlo, il professor Barbanti ha risposto, immagino, anche a Ivana da Vicenza, che non abbiamo tempo di sentire, ma che chiedeva, ci raccontava che ha fatto la TAC, analisi di tutti i tipi, non risulta nulla e non sa come curare la sua emicrania. Anche per Ivana il neurologo potrebbe richiedere la risonanza magnetica, ma chiediamo ad Ivana di scriverci perché gireremo la sua richiesta al professor Barbanti, che intanto ringraziamo e salutiamo. Sull'ultimo sms non è nulla da di dire. Di Fabio, esatto. Professore, non so se lei potrebbe aiutare Fabio. È una terapia adeguata, non sappiamo. Il mal di testa da suocera è grave, ci scrive Fabio, come posso curarlo? Il mal di testa da suocera di solito è ingravescente, perché le suocere col tempo maturano qualche vizio oltre che le loro solenni virtù, quindi direi che deve, a proposito di capo, deve chinarlo, ecco, la cura è chinare il capo. Il capo, grande professor Barbanti, grazie per essere stato buona con giornata. Noi grazie a presto. A voi, e a voi, arrivederci. Cuore e denari. Buoni o cattivi, non è la fine. Prima c'è il giusto sbagliato. Nico, io e te siamo buone. Dai, vero? Così è così, dai. Aspettiamo. Ce lo diciamo da sole. Ecco, aspettiamo perché. Babbo Natale. Vediamo che cosa ci porta. Dono. Bene. Io intanto ti porto un ospite da Roma, fra un po' lo presenterò ai nostri ascoltatori, ma introduco anche il tema che affrontiamo in questa parte di denari. Parliamo del consumatore consapevole. A giudicare da coloro che si sono già prenotati e hanno scritto, ci sono in tantissimi, hanno piena consapevolezza i nostri ascoltatori dei loro diritti in quanto consumatori, ma qualche volta esercitarli è davvero difficile. Perché? Perché affrontiamo un mondo che è fatto di soggetti buoni, di cui fidarsi, ma anche di cattivi, da cui bisogna sapersi guardare. Noi tutti siamo consumatori, ogni scelta che facciamo, lo dicevamo anche in apertura, ha un presupposto economico, anche se a volte non glielo vogliamo dare, e una conseguenza economica, ma spesso, non sempre dietro le scelte di noi cittadini, in qualità di consumatori, si cela una piena consapevolezza. Cosa significa questo concetto? Perché vuol dire tutto e nulla, è un tema talmente ampio che per capirne bene tutte le implicazioni, vi lavora una grande organizzazione, della quale molti di voi avranno sentito parlare, che si impegna totalmente per fare in modo che le nuove sfide del consumerismo vedano gli stessi consumatori come attori protagonisti e non semplici comparse. Oggi allora vi raccontiamo cosa fa Consumers Forum. Abbiamo con il presidente Fabio Picciolini. Guardi che biglietto da visita che le ho fatto. Bellissimo, buongiorno a lei, buongiorno a Nicoletta a Milano, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Buongiorno, benvenuto. Grazie. Allora, lanciamo subito la sfida, fra virgolette, ai nostri consumatori / ascoltatori. Chiamateci all'800 24 00 0024 per raccontarci come e quando esercitate il vostro ruolo di consumatori consapevoli, se ritenete di esserlo o se invece le iniziative del mondo del commercio vi colgono spesso impreparati e non siete in grado o almeno non lo siete in misura sufficiente. Cosa vogliamo dire? Facciamo degli esempi. Entrate in banca e vi lasciate condizionare dall'impiegato particolarmente bravo nel sottoporvi un prodotto di risparmio, non ce la fate a dire di no. Il centro commerciale per voi è il luogo delle tentazioni alle quali non sapete appunto dire di no. Oppure al contrario, vi interrogate sul consumo sostenibile, sulla responsabilità sociale di imprese e fate le scelte di consumo di conseguenza. Noi oggi faremo anche un punto sull'attività di conciliazione paritetica, che è il cuore dell'attività di Consumers Forum, l'attività che cerca di mettere in relazione diretta aziende e consumatori quando si deve gestire una situazione di conflittualità fra questi due soggetti. Quindi utilizzate anche il nostro numero verde per raccontarci, come già state facendo in tanti, vero Nicoletta? Fra un po' assolutamente daremo spazio ai nostri ascoltatori che sono già lì. Anche, esatto, che qualcuno a fronte di un disservizio chiama persino le forze dell'ordine. Devo dirti che Fabio Picciolini a microfoni spenti mi diceva: fanno bene, Picciolini, a mali estremi estremi rimedi? Ma certamente sì, perché allora con molte aziende, le aziende sane, noi abbiamo posto in essere delle proposte, degli accordi, dei protocolli, noi o le singole associazioni di consumatori, chiaramente, che sono ben 19, ma non tutte le aziende si comportano bene. A quel punto lì non può che essere necessario trovare altre forme di tutela, perché come diceva lei inizialmente, è vero che il consumatore del terzo millennio ancora non sa bene fino in fondo quali sono i suoi diritti e i suoi doveri, onestamente, però sicuramente è più consapevole. Cioè, ecco, la marea di SMS, di mail che stanno arrivando dimostrano questo, cioè il consumatore sa e vuole autotutelarsi, poi viene anche da noi, ma vuole prima di tutto autotutelarsi. Certamente. Allora, Picciolini, l'organismo che lei presiede ha 15 anni di vita, Consumers Forum. Ci spiega, l'ho detto prima sinteticamente, ma ci spiega nel dettaglio che cosa fate, così diamo modo agli ascoltatori di capire che lavorate per tutti noi. Sì, noi non siamo un'associazione di consumatori, noi siamo un'associazione che è nata nel 1999 mettendo insieme, cosa unica in Italia e in Europa, imprese, associazioni di consumatori, atenei e una istituzione pubblica. Quindi hanno provato a mettere insieme un modo per ragionare, non come si fa normalmente al tavolo di trattativa o quando c'è un reclamo, ma per costruire un qualcosa. Questo ha portato in 15 anni ad attività molto importanti, credo che ne parleremo dopo. Siamo stati fra quelli che nel 2009, 2010, 2011 hanno portato avanti a livello europeo il discorso della conciliazione paritetica, portando dei documenti a Bruxelles, ragionando sul perché questa formula è vantaggiosa rispetto alla mediazione che hanno mediazione civile che l'ha introdotto, o all'ultima negazione assistita, per non parlare della giustizia ordinaria che costi, tempi, difficoltà e via dicendo. Quindi questa è una strada. L'altra strada, ovviamente, come ho detto, è la conciliazione. Quindi ci muoviamo su vari fronti. E i nostri soci sono attivissimi e, ripeto, sono le eccellenze nazionali come imprese e le eccellenze nazionali come associazioni di consumatori. Gli atenei ci danno quel di più che molto spesso a noi consumatori manca. Supporto accademico. Ho fatto tutto il ragionamento iniziale sul consumatore consapevole perché questo tema è al centro di uno dei vostri più importanti appuntamenti annuali, che è Consumeeting, che si svolge intorno ad ottobre. Ed è un evento nel corso del quale voi ragionate proprio sul rapporto azienda-consumatore. Quest'anno i lavori si sono concentrati in particolare su quattro settori: banche, tanto per cambiare, terreno di conflittualità che conosciamo bene, farmaci, trasporti, food e distribuzione. Perché questi temi? Beh, parto dall'ultimo perché era forse il più semplice da discutere, da dire. Con Expo che parte l'anno prossimo, è evidente che il food non potevamo, diciamo così, abbandonarlo. Banche, l'ha detto lei, ogni giorno abbiamo queste problematiche. Guardi che gli ascoltatori di Radio 24 la conoscono bene, perché le battaglie che ho fatto con lei su questo terreno ce le ricordiamo tutti molto bene. È vero. Trasporti, per due motivi: perché da un lato c'è la nuova authority che è stata creata l'anno scorso, a pochi mesi di vita, poco più di un anno, ma soprattutto perché finalmente stanno uscendo dei regolamenti europei già recepiti in Italia, che sia sul trasporto su treno, su su rotaia sia per trasporto su gomma stanno implementando la tutela del consumatore. Quindi sono temi giorno per giorno. L'anno scorso abbiamo fatto l'energia, probabilmente la rifaremo l'anno prossimo, ma ripeto, anche su questo a me piace sempre dirlo, gli atenei che ci supportano sono molto di più, perché ci dicono anche qual è l'argomento e come approfondire, certo, quel dato argomento, su cui focalizzare l'attenzione. Allora, noi possiamo mettergli il bollino blu di Cuore Denari al nostro dottor Picciolini, sì, perché tratta dei temi che sono quotidiani a Cuore Denari, esatto, e trasversali a tutti, proprio come il mal di testa, Nicoletta. Allora, senti, prima di sentire il giornale radio sentirei subito la testimonianza di Ingrid dalla provincia di Torino, perché ci vuole denunciare quanto le è accaduto. È un tema non esattamente di competenza di Consumers Forum, però è interessante capire dove si nascondono tutte le insoddisfazioni, perché veramente ci possiamo scontrare con situazioni di conflittualità ad ogni angolo. La salutiamo, Nicoletta. Buongiorno Ingrid, che cosa le è successo? È andata a Torino? Ero a Torino anni fa, mi ero fermata con degli amici spagnoli in un bar, seduti al tavolino, fatta la consumazione, arriva il momento di pagare, mi reco alla cassa e mi vedo appioppare una fucilata da stramazzare a terra, anche dico, ma gentilmente, ma le parlo, c'erano ancora le lire, perché fortunatamente le associazioni consumatori hanno fatto un grande lavoro per tutti a difesa dei consumatori e degli utenti, e quindi, non so, una consumazione tipo un crodino, due birre, era venuta a fare qualcosa tipo 30 euro, sì, come, 30.000 lire, mi sembra. Come, quasi al come un pranzo al ristorante. Esattamente, al che dico, gentilmente, ci deve essere un errore, possiamo verificare, creano un attimino, fanno delle facce poco carine, sì, cioè un po' furbine, e dico, esattamente, dico, gentilmente mi tiri giù il tarifario dell'EPAT e lo verifichiamo in seduta stante, dico, guardi, questo è l'importo, questo è quello che lei ha denunciato nello scontrino. Ingrid, grazie, dobbiamo salutarla perché abbiamo il giornale radio, un po' come capita ai giapponesi di Roma, insomma in tante altre località molto rinomate dal punto di vista turistico, Nicoletta. Speriamo che non capiti a Milano all'Expo, ecco. Guarda, su alberghi che hanno già triplicato le loro quotazioni per maggio, le conosciamo già queste situazioni. Anzi, poi lo faccio commentare Picciolini su questo argomento. Cuore e denari. Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu. La verità di amare la so. Lo so che ho sbagliato. Sì, la verità può farci male, a volte nella nostra quotidianità incappiamo in disavventure più o meno gravi che riguardano la nostra sfera economica, e a volte la verità dolorosa è che siamo stati anche un po' ingenui, altre volte che qualcuno ci ha messo un po' del suo e ci ha preso anche un po' in giro. In entrambi i casi il modo per trovarla, questa novità, c'è, e fare in modo che ne seguano le giuste conseguenze naturalmente c'è altrettanto. Noi torniamo a parlarne in diretta in questa seconda parte di trasmissione. Oggi la squadra di Cuore e Denari è divisa su due città. Dov'è la Carbone? La Carbone è restata a Milano. La Rosciani a Roma. Con un ospite che salutiamo di nuovo, Fabio Picciolini, presidente di Consumers Forum, un organismo il cui compito più importante, lo abbiamo anche spiegato nella prima parte del programma, è quello di promuovere la cultura del consumo responsabile, ma anche rappresentare un punto di incontro fra le associazioni dei consumatori, le imprese, il mondo accademico, le istituzioni pubbliche, e infine un altro bel compito che voi avete sul groppone, Picciolini, è quello di migliorare il livello di informazione e trasparenza sulla qualità e la sicurezza dei prodotti e dei servizi. Allora, abbiamo invitato come sempre i nostri ascoltatori a chiamarci all'800 24 00 24 per raccontarci magari qualche loro vicenda, per capire se hanno anche intrapreso la strada giusta per tutelarsi, perché spesso gli strumenti che abbiamo a disposizione non li conosciamo tutti, e devo dire che Picciolini negli ultimi anni forse si sono moltiplicati a dismisura. Sì, alcuni ancora debbono entrare pienamente in funzione, tipo l'ultimo che è la negoziazione assistita della legge sulla giustizia del governo Renzi. Però io continuo a essere convinto, ormai da molti anni, da quando faccio ancora parte di un'associazione di consumatori, che la conciliazione paritetica sia lo strumento migliore, a prescindere da ciò che obbliga la legge, tipo la mediazione per alcuni settori. Perché? Perché è uno strumento veloce, gratuito e dove non perde nessuno soprattutto. La cosa importante è che si decide secondo equità, non secondo, secondo diritto. Questo cosa significa? Che il consumatore non si sente abbandonato dall'impresa con cui ha stipulato un contratto. E l'impresa, che è altrettanto importante, non perde un cliente, perché il cliente, il consumatore arrabbiato, se ne va. Cambia gestore telefonico, cambia gestore dell'elettricità, cambia banca e via dicendo, anche se ancora troppo poco, secondo il nostro punto di vista. Però ecco, decidere secondo equità significa, diciamo così, appunto, che non perde nessuno. E questo secondo me è un aspetto importante. Se si decide secondo diritto, mediazione o negoziazione assistita, o tribunale ancora di più, qualcuno vince e qualcuno perde, e qualcuno è scontento. Però la conciliazione, proprio come indica naturalmente la parola stessa, è proprio una, come dire, un istituto che in qualche maniera fa trovare le due parti a metà strada. Certo, no? Certo. Ma per quale motivo un consumatore che si sente leso in un suo diritto deve intraprendere una conciliazione quando ritiene magari che un torto debba essere ripagato totalmente? In quel caso deve invece un po' abbandonare un po' la propria sovranità individuale. È vero. A prescindere di quello che ho detto poco fa, celerità e gratuità, mentre se uno va nei tribunali non c'è né gratuità né celerità. Il punto secondo me importante è questo, è che molto spesso, e questo deve essere un nostro dovere migliorare, i consumatori non conoscono bene fino in fondo quali sono non solamente i loro diritti ma anche i loro doveri, e allora bisogna che... Quindi lei dice partiamo sempre dal fatto, pensiamo di avere sempre ragione. Esatto, io per primo, se ho un problema con una società, con un'impresa, con un gestore, io penso di avere ragione, ma non sempre è detto che io abbia veramente Facciamo ragione. Facciamo quell'esempio che facevamo a microfoni spenti, picciolini. Nel credito al consumo, per esempio, una persona vuole chiudere anticipatamente un prestito che ha stipulato magari tempo addietro, e arriva il momento, ha tutta la liquidità necessaria per chiudere questo finanziamento, arriva, track, la società dice devi pagare questa penale di estinzione. Il consumatore si arrabbia e poi magari non aveva visto nelle pieghe del contratto che questa penale era stipulata, quindi... Era regolarmente appunto sottoscritta. Ma non solo era nelle pieghe del contratto, ma è una norma di legge, il decreto legislativo 141 e quelli precedenti ancora, che prevedono che ci sia una penale a scendere chiaramente più si avvicina la scadenza, ma che comunque ci sia una penale. Per cui ecco, io continuo a dire che è compito delle associazioni di consumatori, è compito di Consumer Forum come cassa di risonanza delle associazioni di consumatori e delle imprese far conoscere appunto quali sono i diritti e quali sono, certo, e quali sono i doveri. Nicoletta, chi bussa al numero verde? Allora, bussano due prestanti giovani. Ah, li hai visti? Marco, sì, li ho immaginati. Marco dalla provincia di Roma e Walter da Lecce. Ma bene, devo dare la precedenza a Marco perché si era messo. Buongiorno Marco. Buongiorno, grazie per il prestante giovane, di telefono più spesso. Bravo, va, io lo faccio apposta. Facciamoci reciprocamente i complimenti. Tanto guardi, costano poco, rendono molto. Brava, brava. Va bene. Allora, Marco, io dice? Ho problemi, cerco di essere chiaro e sintetico, ho problemi con un gestore telefonico. Ma va? Mi sono trasferito di abitazione in provincia di Roma, a marzo ho fatto la disdetta perché a luglio sapevo comunque di aver venduto casa, e mi arrivano le bollette praticamente di agosto, chiamo, chi risponde mi dice no, non si preoccupi, la disdetta l'abbiamo fatta, le facciamo sapere, non mi fanno sapere nulla. Mi arriva il sollecito di pagamento di quella bolletta e in più mi arriva il pagamento della bolletta di dicembre. Richiamo e dico scusate, che cosa succede? Avete ricevuto la mia disdetta, mi avete detto di attendere, che cosa succede? Praticamente mi dicono, mi comunicano no, perché manca un documento, lei non ha consegnato un documento. E allora aspettate ancora un po' a dirmelo. Ma io come faccio a sapere che manca il documento? E quindi quando... Se non me lo dite, prima domanda. La seconda, che ancora è su calce, voi comunque nella domanda che non avete accettato, tra l'altro non hanno accettato la mia disdetta, tra l'altro, mi dicono che la disdetta però parte dal 10 ottobre. C'è qualcosa che non va. Direi di sì. Allora, intanto forse Marco, lei è irresistibile, non la vogliono mollare. C'è anche l'hanno visto che è prestante, ecco. L'hanno visto che è prestante. Va bene, allora. Picciolini, certo che quando cominciamo con il settore delle telecomunicazioni, qua dovremmo continuare ad andare in diretta fino alle 7 di stasera. Beh, la cosa che a un certo punto fa anche sorridere è che i gestori di telefoni sono quelli che hanno il maggior numero di multe da parte dell'autorità delle telecomunicazioni. Anche quello. Ma sono quelli che hanno il maggior numero di reclami, ma sono anche, dall'altro lato positivo, sono quelli che fanno più conciliazioni e devo dire con percentuali intorno al 90%. È un settore estremamente competitivo, ecco. C'è una migrazione continua, si gioca molto, e su questo non siamo molto d'accordo, almeno io non sono molto d'accordo, si gioca molto sulle promozioni, per cui le persone appunto poi migrano da un gestore all'altro. Ma questo comunque è un caso che non è da conciliazione, secondo me, che qui veramente è stato un errore vero e proprio. Qui va fatto un reclamo fermo, peraltro con quello che ha detto, che dal 10 ottobre gli hanno accettato la disdetta e poi invece lo fanno pagare, e eventualmente non vedo perché no fare anche una segnalazione. In realtà, da quello che capisco, la disdetta lui l'ha fatta a marzo, la fanno partire da ottobre. E perché? Quindi insomma questo qui bisogna dire, appunto, questo documento, se nella comunicazione solo l'ha fatta telefonica o l'ha fatta formalmente, cioè, per iscritto, e via dicendo. Comunque, ripeto, le associazioni dei consumatori, lui è in provincia di Roma, a Roma sono presenti, certo, tutte. No, tra l'altro, ammettendo che lui, siccome non ha capito bene di questo documento, ammettiamo che la compagnia telefonica sia in buona fede, che l'avesse detto e non ha capito Paolo, ci sembra di no, però ammettiamo che sia così, quindi ci sia quella piccola parte di torto da parte dell'ascoltatore. Se lui volesse conciliare, ci dice come si fa? Ma è semplicissimo, basta che si rivolga a una delle associazioni dei consumatori che hanno sottoscritto un protocollo con uno dei quattro, poi sono 50, ma sono quattro i principali gestori, 4-5 meglio ancora, i gestori italiani. Tutti hanno fatto procedure conciliative con sostanzialmente tutte le associazioni dei consumatori. Tempi abbastanza rapidi. Che obblighi ha una compagnia? Dunque, diciamo che fra i 40 e i 60 giorni normalmente si riesce a conciliare. Ecco, questo per esempio è un problema estremamente importante. Su alcuni settori invece, parlo dell'energia, dove siamo molto preoccupati come consumeristi. A Roma lo credo bene. E chiudo la parentesi. Senza fare nomi. Senza a Roma. Fare nomi. No, il problema è tutta Italia, e purtroppo sull'energia, dove ad esempio acquisire i 180 giorni previsti dalla direttiva europea è già un successo. Perché molto spesso si evolve, 180 giorni è veramente un'eternità. Poi saranno i lavorativi, immagino, o sono 180 giorni? 180 giorni, precisi. E allora il discorso è che normalmente io ieri ero in Trenitalia con 42 giorni medi, quindi va benissimo, cioè 40 giorni sono una cifra abbastanza, un periodo abbastanza corto, mi sembra un fatto positivo, ma anche i gestori telefonici sono abbastanza rapidi. Qui, ecco, appunto, se il nostro ascoltatore pensa di avere qualche responsabilità, ma non mi sembra, come l'ha detto, andare in conciliazione, ripeto, chiude rapidamente. Se invece è certo che non gli hanno detto nulla, che ha fatto la comunicazione formalmente, qua l'ha fatto un reclamo intanto, esatto. Può anche andare al Corecom, no? Volendo può andare anche al Corecom, però siamo sempre al discorso di prima, il Corecom decide secondo diritto. Va benissimo se uno, ecco, pensa di avere ragione al 101%, la battaglia la fa fino in fondo, ma se pensa di avere qualche dubbio, io credo che appunto avere una risposta in 40 giorni o addirittura, da dove possibile, anche se si va nel momento giusto in cui c'è la conciliazione il giorno dopo, anche in una settimana o in 2-3 giorni, mi sembra un fatto positivo. Nicoletta, qua con Walter mi servono le tue competenze. Allora, andiamo. Non so se hai avuto modo di vedere. Sì, sì. Walter ci parla di una crema. Intanto, Walter, buongiorno a lei, benvenuto. Buongiorno a tutti voi, vi saluto, vi faccio pochi complimenti perché la storia è molto divertente. Ok, allora, via. Sì, io acquisto una crema, crema viso, dove c'è acido ialuronico 40% sul davanti. Acquisto, me la porto a casa con calma, guardo dietro dove ci stanno le specifiche degli ingredienti, e nella specifica c'è tra i componenti un acido ialuronico nell'1% di un composto al 40%. Chiedo spiegazioni al farmacista, non ne sa niente perché tanto questa loro li vendono e basta, li produce un grosso gruppo farmaceutico. Beh, non è detto che però non ne sappiano mai, dai, poveri farmacisti, di solito sono molto preparati invece. Comunque mi è capitato almeno con tre farmacie diverse, io ho detto non perdo tempo, chiamo il gruppo farmaceutico. E cosa le hanno detto? Parlo con il direttore commerciale, io guardi, io penso che sia scorretto questa indicazione dove c'è scritto sul frontale il 40%, in realtà negli ingredienti è scritto correttamente l'1% di una soluzione al 40%. No, per me va bene così. Non soddisfatto. Faccio un reclamo all'Agicom. Ma vedi, Walter è tosto, eh? All'Agicom è l'autorità garante del mercato, Walter, non delle comunicazioni. Agicom. All'antitrust, sì. Antitrust, non Agicom. Sì? Comunque gli faccio una comunicazione, l'accesso, non c'è. Dopodiché aspetto il giudizio, dico, cioè, lampante, non possono scrivere 40% davanti quando in realtà è lo 0,4%. Com'è finita, Walter? È finita che mi hanno dato torto. Forse sono messo qualcuno troppo grosso? No. Allora, Walter, sono curioso adesso di aspettare una risposta, certo. È una delle poche sfide che ho e nel frattempo, Walter, lei ha cambiato crema viso, immagino. Indubbiamente. O la sta utilizzando? No, no, quello l'ho solo conservato lì, la prova. Per fornire come prova. Certo. Mi hanno detto te lo cambio, no, me lo cambio. La tenga ma lì. Ce l'hanno tutte le farmacie e l'ordino brandizzato con loro. È nome. Diventato ormai la sua battaglia. Tra l'altro, Nicoletta, a proposito delle etichette che abbiamo affrontato la settimana scorsa, quella nuova regola che impone che siano più leggibili, vale anche per questi prodotti? Abbiamo parlato solo degli alimentari. Noi abbiamo parlato di alimentari, non mi risulta che riguardi anche il reparto cosmetico. Infatti. Ma ci informeremo e ne faremo magari occasione di un'altra puntata. Certo. Allora, certo che l'autorità presieduta da Pitruzzella Picciolini, che non conosciamo bene, ne ha una al giorno e sui settori più disparati, perché, come dire, un po' il tema della l'universo mondo della pratica commerciale scorretta è veramente come dire molto ricco, molto articolato, insomma, dai farm, esatto. Che ne pensa, esatto, del caso intanto di questo ascoltatore? Ma diciamo, questo è un caso abbastanza particolare. Premetto, è un settore in cui credo nessuna associazione o una al massimo ha dei rapporti di conciliazione con le case farmaceutiche, con le case farmaceutiche. Perché non le fanno? Non ci siamo mai riusciti fino ad oggi. Speriamo che le singole associazioni riescano a farlo. Qui però c'è un punto che va visto a monte. Questa crema sicuramente, come obbligo di legge, ha l'autorizzazione del Ministro della Salute. Certo. Mm-hmm. E quindi bisogna vedere se il bugiardino in sé, ma anche quello che è scritto, rispetta quanto è stato autorizzato dal Ministero della Salute. Poi, per carità, se noi ci attendiamo, e magari ci è stato detto male, è stato fatto apposta dal venditore, che quella crema abbia il 100% di antirughe, è evidente che noi poi non siamo d'accordo e facciamo tutti i reclami necessari. Però ripeto, sul caso dei farmaci c'è sia il Ministero della Salute, sia c'è l'AIFA, ci sono probabilmente, ma ripeto, non so dove abita il signore, ma insomma, si può affrontare a Lecce, ci sono molte associazioni di consumatori, almeno 5 o 6 vado a memoria, per cui sicuramente potrà trovare una risposta anche più diretta da parte dei colleghi di Lecce. Prima di sentire Isidoro da Milano, Picciolini, storicamente, io siccome la conosco da tantissimi anni, sappiamo bene che il suo terreno più congeniale è quello finanziario, e per anni i conflitti con il sistema bancario appunto sono stati il suo pane quotidiano e quello di molte associazioni dei consumatori. Ci sembra che oggi non sia più così come in passato, un terreno di grande conflittualità. Questo settore ha ceduto il passo ad altri comparti con cui è difficile relazionarsi? Come mai le banche sono diventate, non dico così brave, un po' più brave del passato? Non sono brave le banche. Non sono brave le banche. Diciamo che ci sono vari aspetti che possono che hanno contribuito a migliorare la situazione. Il primo, l'Europa. Cioè avere direttive europee recepite integralmente o addirittura anche ampliate a livello nazionale, io penso a due, una già in vigore da 3 anni che è il credito al consumo, l'altra in via di recepimento che è il credito ipotecario, quindi l'acquisto della casa, il mutuo e via dicendo. La seconda cosa è che hanno compreso, e questo non può che farci piacere, che il rapporto con il consumatore deve essere mediato, forse è una parola bellissima, ma di essere mediato comunque con la rappresentanza dei consumatori, perché è evidente, io che vengo da questo settore probabilmente ne so di più dell'idraulico che va in banca per aprire un fido, per aprire un mutuo, quindi quasi tutte le grandi banche hanno procedure di conciliazione. L'ABI, che è l'associazione di categoria, Assofin per la parte delle società finanziarie, hanno tavoli di lavoro aperti in continuazione sulla trasparenza, sulla riforma di alcune norme, sull'introduzione di come si può dire, di norme anche più semplici o meglio leggibili rispetto a quello che Banca d'Italia nella norma deve fare. hanno creato adesso una federazione che ha sostituito Pattichiari per quello che riguarda l'educazione finanziaria, aspetto fondamentale, quindi diciamo che qualcosa è migliorato, dobbiamo ancora fare molto, perché io ricordo sempre lo stesso argomento, che i costi italiani sono più alti di quei costi europei. Esattamente, si sono un po' ridimensionati ma rimangono sempre molto alti. Quindi la lezione di oggi, Nicoletta, è che se domani dovessimo sottoscrivere un contratto con una compagnia telefonica o con un gestore, un distributore di gas ed energia, prima di tutto guardiamo se la società ha sottoscritto un protocollo di conciliazione con un'associazione dei consumatori. Non si sa mai. Che dici? È il primo passo per andare tranquilli. Andiamo così. E andiamo da Isidoro? Sì, andiamo da Isidoro, poi facciamo concludere Picciolini, perché mi sa che il tempo qua ci sta sfuggendo di mano. Isidoro, veloce. Speedy. Siete meravigliose innanzitutto. Bene. Volevo solamente fare una domanda e un suggerimento. Bene. La prima domanda è: come mai le compagnie, diciamo, telefoniche e anche quelle energetiche in genere non mandano un contratto cartaceo, di modo che l'utente possa leggerselo comodamente, ma non lo mandano neppure via mail, ma dicono che possiamo farlo solo ed esclusivamente telefonicamente? Questa è la prima domanda. Il suggerimento: aboliamo i contratti telefonici. Potremmo cercare di fare più chiarezza su tutto. Faremo una puntata solo su questo, sui contratti delle compagnie di energia e gas. Con il decreto legislativo 21, che è quello sulle vendite a distanza, vendite e-commerce, è possibile, invece deve essere inviato obbligatoriamente. È il nuovo codice del consumo. Esatto, questo. La nuova parte. Mi permetti di dire una cosa importante sulla conciliazione? Il recente accordo fatto una settimana fa da Pitruzzella, quindi antitrust, e Cantone, quindi anticorruzione, prevede che i protocolli di conciliazione paritetica concorrono al rating di legalità. Ah. E questo è un aspetto secondo me fondamentale per un il futuro. Un bel patentino per le aziende, insomma anche Cantone quante ne ha da fare. Nicoletta, pure noi oggi pomeriggio abbiamo tante cose da fare. Parecchie. Dobbiamo preparare allora, la conferenza di domani, dove andiamo, tornare a Milano. Dai. Grazie, ci vediamo domani, molte grazie a Fabio Picciolini, buon lavoro, buon Natale, buon 2015 per tutte le vostre battaglie. Nicoletta, buon tutto, auguri, buon tutto. A domani. Buona giornata.